Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. E torniamo in diretta dopo Linea al GR di Radio Popolare, come vi ho detto, rubriche corpose, quest'oggi con un Last Minute che parte per una proiezione che sarà per la domenica, anzi scusate, fino alla domenica, ma che troverà un'estensione che parte da oggi. Oggi con Pirata, cult movie del 1984 di Paolo Ciaffi Ricagno. È la seconda edizione della rassegna Fuori ruolo, slittamenti creativi nel cinema italiano. 15, 18 e 21 dicembre 2023 all'Auditorium Dams Lab di Bologna. Pirata cult movie, proiezione che sarà questa sera, una proiezione che vede una protagonista, Jo Squillo. Amanti degli anni 80 in declinazione italiana, veramente questa è la proiezione che fa per voi, e sarà con la presenza del regista e della protagonista per la rassegna Fuori ruolo. Abbiamo anche selezionato una musica che sia attinente a questa proiezione, quindi iniziamo con i motivi di conversazione. Ho contattato Jo Squillo, sentiamo appunto questa anticipazione. Pirata cult movie, proiezione il 15 dicembre 2023 al Dams Lab, la seconda edizione della rassegna Fuori ruolo, slittamenti creativi nel cinema italiano. E per quanto riguarda venerdì 15, appunto, vi sarà questa proiezione. Siamo con Jo Squillo, in questo caso attrice, al quale do il buongiorno. Buongiorno e benvenuta. Grazie a voi. Iniziamo. Buona musica. Esatto, ce ne sarà tanta anche nella proiezione, immagino, ma ne parleremo. Sì. Intanto parliamo di cosa parla il film e chi è il tuo personaggio. Ma io sono un personaggio, sono un artista, quindi sono me stessa, interpreto un po' il mio ruolo, quello di essere un artivista, quindi di cantare, ma nel stesso tempo di fare, come dire, attività sociale attraverso le canzoni, la musica, l'arte, quello che ha fatto poi tutta la vita, insomma. Sì, e intanto poi che messaggio vuole nel suo complesso trasmettere il film? Ma guarda, è di quegli anni meravigliosi, perché ricordiamoci che erano gli anni 80, quindi uscito nell'84, poi invece realizzato nell'83, quindi nel pieno del boom della creatività e anche della follia degli anni 80. C'era sperimentazione, c'era avventura, il protagonista andava in giro con i pattini a rotelle a cercare appunto qualcosa. Era un modo anche diverso di guardare la realtà, e questo è stato un po' il simbolo un po' di questo film, no? Cioè che ha catturato quell'epoca, cioè sperimentatori che andavano, si muovevano con alternative, no? Con metodi alternativi, perché per cercare anche il futuro. In quegli anni la parola d'ordine era no future, quindi erano gli anni del punk, ma precisamente poi della new wave, della nuova ondata. Quando non c'era futuro ce lo siamo inventati noi, in pratica, e quindi facendo dell'arte, insomma, la nostra principale forma di vita, quindi non solo come svago come oggi si può pensare la musica, ma anche proprio come modo per raccontare attraverso le canzoni le nostre storie. Io ho scritto 150 canzoni, 150 storie scritte, ma vuol dire anche registrate, vuol dire che comunque sono documentate. Like a lover from Italy. Grande Bada, intanto Intanto, parlando con Andrea Gozza, che saluto e ringrazio, volevo portare in colonna sonora questo brano, solo che non ne conoscevo il titolo. Ho cominciato a cantare 77 e lui mi fa: ma certo, è un brano di Italo Disco, però ovviamente con i Gas de Vada, il flirt e soprattutto la new wave è assolutamente presente. I See Love Affair, Gas de Vada. Ecco, questo è un groove, tra l'altro, anche se non sono esattamente dalla provenienza new wave, secondo me assolutamente accattivante e ben fatto. Gas de Vada, che vengono citati anche da Joe nella nostra conversazione, in quanto la musica è assolutamente presente per tutto ciò che è colonna sonora all'interno di Pirata Cult Movie questa sera al Dams Lab alle ore 21. Le proiezioni, ovviamente, essendo rassegna, non finiscono certamente in questo caso alla giornata odierna. Cito le seguenti: Welcome Palermo e Controfigura, che saranno rispettivamente per il 18 e il 21 dicembre. Vi ho detto, come ho annunciato in precedenza, la rassegna è estesa, la rassegna è nella sua seconda edizione, il titolo è Fuori ruolo, slittamento creativo nel cinema italiano, all'Auditorium Dams Lab, ovviamente di Bologna. Ma noi continuiamo a chiacchierare con Joe Squillo, che nella seconda parte appunto dà una specificità italiana a quello che è stato il movimento New Wave negli anni Ottanta. Oggi è tanto scrivere una canzone, perché è difficile trovare storie. Erano gli anni in cui le storie purtroppo si raccontavano anche con un pugno nello stomaco e a volte anche con grande difficoltà, però questo è stato il bello un po' di questo film. Che fra l'altro questo film ha unito la new wave più cool di quegli anni, perché ha unito lui, che era il regista, che era di Torino, ha unito poi anche le grandi creatività, la grande musica di Gas de Vada, che era una band storica proprio bolognese, per legarsi poi invece a Milano, che appunto che io rappresentavo un po' quella ondata di musica ribelle e sperimentale. Hai partecipato anche appunto alla creazione della colonna sonora, hai già dato molte anticipazioni, ovviamente ci sarai. Sì, ci sarò, mi fa piacere incontrare quel mondo, e soprattutto mi fa piacere che i ragazzi che studiano il futuro, no? Che studiano come cosa fare nel futuro, guardino alle colonne importanti degli anni Ottanta. E questi sono anni in cui si è creato molto, si è fatto molto, si è ipotizzato tanto, e ancora oggi c'è quella mentalità, quello spirito di curiosità, e mi fa piacere vederlo negli studenti, che dovrebbero essere sempre più curiosi e sempre più attenti, non solo nel guardare il passato, ma nel guardare le cose, come dire, le cose importanti che ci fanno capire come invertire la rotta in questa realtà proprio di società più così modesta e anche un po' noiosa, una società un po' anestetizzata da tutto quello che sono i social, ma anche se vuoi anche al dolore che stiamo vivendo. Quindi forse un richiamo a essere più rumorosi, ecco, ai giovani di oggi. Grazie per questa anticipazione, ti auguro una buona giornata. Ci vediamo tutti. A presto, ciao. Ok, ci vediamo tutti domani, ciao ciao. Ah, precisazione, non è che anche Joe Squillo, come faccio io con le date, è un pochettino confusa, no, per lei è molto chiaro, in quanto l'intervista è stata realizzata nella giornata di ieri, per cui l'appuntamento è a questa sera al Dams Lab per la proiezione di Pirata Cult Movie, con la presenza di Paolo Ciaffi Ricagno, la presenza del regista e della protagonista Joe Squillo. Mi 1984, questo singolo I Love Muchacha, ho concluso questa mini selezione con la protagonista, che ringrazio per la disponibilità, Joe Squillo. A breve, brevissimo, pubblicità, poi si rientra e si apre il sipario sui 103.1 con la rubrica In Scena. Seconda parte di presentazione per Da Grande, voglio fare l'aggettivo con Andrea Santonastaso, già abbiamo sentito l'anticipazione per il giorno stesso di esordio con Nicola Bonazzi, regista. A breve avremo l'attore sul palcoscenico di ITC Teatro a San Lazzaro, Andrea Santonastaso. Tra poco In Scena.